è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui alle 18.39, 800 24 00 24, pronti ad accogliere i vostri interventi in diretta per commentare i fatti del giorno. SMS 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it, i titoli del TG2. La ragazza marocchina uccisa dal padre a Pordenone amava un italiano, gli amici di Sanaa, era bella e moderna, voleva integrarsi, l'autopsia l'ha coltellata, l'ha quasi decapitata. Nubifragi, trombe d'aria, allagamenti, la Sicilia la più colpita, treni in tilt, voli per ore sospesi a Palermo, danni in Calabria, neve in Valle d'Aosta oltre 2500 metri. In Francia un'anziana signora muore lasciando tutto in eredità a chi è stato gentile con lei, postini, autisti, 200 persone, molte sconosciute, il notaio, un'impresa a trovarli. In Bulgaria la lotteria di Stato ha estratti gli stessi identici numeri per 2 settimane di seguito. Nessuno crede ad una casualità, aperta un'inchiesta. Quando è venuto il nostro ospite qui e si parla di un eurodeputato del PDL, Enzo Rivellini, l'abbiamo presa un po' per scherzo, perché ci aveva promesso: parlerò in napoletano durante la prima seduta dell'Europarlamento. E poi è successo per davvero. Provare per credere, anzi sentire per credere. Parli in napoletano, con napoletano è una lingua, con una grammatica, una letteratura, non è un semplice dialetto. Presidente Barroso, l'ha già votato e le chiedo di essere lo presidente di tutta Europa, pure Eurosud, perché Eurosud è a porte dell'Europa e sta a mezzo Mediterraneo. Eurosud unisce mondi diversi, la storia, la posizione geografica, la cultura e l'accoglienza, e può fare assai per tutto il vecchio continente. Eurosud ha contribuito quando 150 milioni di cittadini dell'est sono diventati comunitari. Se oggi un operaio d'Anzica guadagna 28 volte quello che guadagnava prima, ha da ringraziare pure Sud Italia. L'Europa non l'ha da mortificare Sud Italia, se oggi soffre e protesta. A usare una metafora, potesse dire che la nostra protesta è come quando stizzichea, presidente Barroso, evitiamo che arrivo patepate all'acqua. Beh, fa una certa impressione sentire il deputato europeo italiano Rivellini, eletto naturalmente nella circoscrizione che comprende la Campania, parlare con un dialetto incomprensibile ai parlamentari europei, naturalmente tranne forse i napoletani e qualche italiano. In tilt sono andati i traduttori e ci sono state le proteste dei colleghi e degli interpreti. Dicevo, desta una certa impressione sentire il napoletano di Rivellini e poi il time please del presidente, sarà stato, di turno dell'assemblea, che diceva insomma basta, è finito di parlare, anche se non capiva un H di quello che diceva. Tutto questo per dare maggiore risalto al meridione, così buttata lì, parlare in napoletano all'interno del Parlamento europeo. Succede anche questo nell'avanspettacolo della politica italiana esportata all'estero. Berlusconi ha continuato ieri sera nella sua visita alle case appena costruite o alle case in costruzione, dettagliando anche le lenzuola, eccetera. Insomma, bis, tris, per la terza, quarta volta ha parlato delle stesse cose. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Stiamo cominciando con gli arredi e quando sarà finito le vede anche tutti, perché sono tutti materiali pregiati. Abbiamo scelto mobile su mobile, questo per esempio è un piano antisdrucciolo e c'è la comodità più assoluta, la qualità dei mobili è qui da vedere, abbiamo curato non soltanto la qualità ma anche il design in modo da fornire dei mobili di eccellente design. Guardi per esempio questo, è una cosa, ecco, è il frigorifero che è l'ultimo modello della più grande azienda che fabbrica frigoriferi. Qua stiamo montando, buongiorno, come va? Ciao, ciao. Ecco, qua stiamo montando la camera da letto, stiamo montando l'armadio, verranno consegnati tutti anche con gli attaccabiti. Quindi è veramente aperta la porta, c'è una casa non popolare, ma una casa di ottimo livello che farebbe bella figura nel centro di una qualsiasi nostra città. Era una casa molto carina. Ancora continua con le lenzuole e altre cose. Da notare il design, dice Berlusconi. Sentite. Gli appartamenti hanno tutto ciò di cui ha bisogno un appartamento per essere immediatamente vivibile, cioè le lenzuola, le coperte, gli asciugatoi e poi tutta la batteria di cucina, pentole, piatti, bicchieri. Come abbiamo visto a Unna. Esatto. Verranno consegnate nella stessa situazione, per cui le famiglie, una volta avuto la chiave, potranno immediatamente venire a viverci da subito. Era una casa molto carina. Vabbè, insomma, un ascoltatore scrive subito: e tu per la terza o quarta volta lo trasmetti? E come se lo trasmetto? Questo pezzo straordinario di teatro vuole che non lo trasmetta. Secondo lei, Blob che cosa farebbe? Cosa ci farà, secondo lei, nei prossimi giorni? Abbiamo il traffico, torniamo subito. 800 24 00 24. Non c'è il traffico? E come mai non c'è il traffico? Vi siete dimenticati del traffico? Allora chiamatelo pure questo traffico. Allora andiamo con i farabutti, perché una delle frasi più gettonate è quella dei farabutti, rivolta in realtà non ai giornalisti, anche ai giornalisti, ai politici, è pieno di farabutti. Bah. Quindi la manifestazione che per la libertà di stampa che l'opposizione sta mettendo in atto è veramente il contrario della realtà. Siamo circondati nella politica, nella stampa e, ahimè, nella televisione da troppi farabutti. Poi chi sono questi farabutti? Magari in alcuni casi è facile intuirlo, ma resta nel vago. Giustamente un ascoltatore scrive: Berlusconi come Aiazzone, ed un po' è così. Andiamo a ripescare qualche spot di Aiazzone. Parli in napoletano, o napoletano è una lingua, con una grammatica, una letteratura, non è un semplice dialetto. Presidente Barroso, l'ha già avuta. Allora, Rivellini, buonasera. Buonasera. Senta, chi era quello che diceva time please? Era il presidente di turno del Parlamento, uno dei vicepresidenti, insieme alla segretaria delle audizioni del Parlamento, con cui aveva avuto due giorni di trattativa, perché non mi volevano far parlare. Sì, non mi volevano far parlare in napoletano. Affermavano che il napoletano non era fra le lingue previste e alla fine abbiamo trovato una soluzione intermedia. Io avrei fatto il mio primo intervento in italiano e avrei tradotto immediatamente dopo queste parole in italiano, dall'italiano al napoletano. Scusi un attimo, allora perché la volevano interrompere? Lei era andato fuori tempo massimo. Perché poi durante l'intervento mi sono accorto che c'era una trappola, un tranello, perché in Europa non si può parlare oltre un minuto e mezzo. Vabbè. E naturalmente loro avevano capito che io non avrei mai potuto svolgere l'intero mio intervento. Non è una trappola, è una regola, Rivellini, altrimenti sarebbe una babele. Io comunque ho capito di questa trappola, perché per me era una trappola, perché c'è stata una lunga trattativa di due giorni e sono andato dritto. Lei ha scomodato gli uffici europei per due giorni? Guardi, io non ho scomodato ha fatto europei. Dibattere io, la burocrazia europea per questa questione del napoletano. Ma non è questione del napoletano. Se lei mi chiama, se oggi su tutti i siti d'Europa il mio intervento è riportato, ed è riportata anche una frase importante, una frase in cui al presidente del Parlamento europeo, Buzek, un polacco, che è stato primo ministro polacco, viene ricordato, io ho ricordato, che in una sola notte, in un sol colpo, 150 milioni di cittadini dell'Est sono diventati comunitari. Questo oggi, se un operaio di Danzica guadagna 28 volte più di quanto guadagnava prima, beh, questa operazione la si deve, che non è stata a costo zero, la si deve anche all'Italia e al sud. No, mi scusi, Rivellini, se oggi si parla molto del suo intervento in queste ore sui blog e su internet, perché naturalmente l'intervento è di oggi, se ne parla perché lei ha pronunciato un discorso in napoletano al Parlamento europeo, non è per il contenuto di questo discorso, siamo chiari, Rivellini, insomma, siamo sinceri. Ma questo è stato un mezzo per parlare del contenuto. Se io non avessi avuto questa opportunità di parlare in napoletano, nessuno mi avrebbe riportato nulla, perché 700 e passa deputati sono intervenuti tutti. Oggi noi parliamo delle emergenze del sud. Io posso ricordare. Ma chi parla delle emergenze del sud? Mi scusi, Rivellini. Non è che a partire dal suo intervento si è innescata una discussione sulle emergenze del sud, che peraltro sono note, di cui si parla da 50 anni. Ma guardi, a parte che credo che sia innescata questa discussione, ma in ogni caso io ho il dovere, come rappresentante della mia comunità, per non essere autoreferente ma rappresentativo, di portare avanti le giuste istanze. Ma questo nessuno lo mette in dubbio, ma c'è bisogno di parlare in napoletano, c'è bisogno di far irritare magari, no, o di far perdere tempo al Parlamento europeo, che già ne perde abbastanza di suo. No, non perde il tempo il Parlamento europeo, perché oggi abbiamo discusso, ripeto, di quella operazione che in un sol colpo ha regolarizzato 150 milioni di cittadini dell'Est, e l'abbiamo paragonata alle difficoltà che oggi ha il Sud, ad esempio sull'immigrazione clandestina, che è in misura molto minore. Quindi non abbiamo perso il tempo. Ho capito, ma qui non si è potuto tradurre. Sì, ma adesso io ho detto il Parlamento europeo perde tempo perché ho una mia idea di come funziona il Parlamento europeo e bisognerebbe riformarlo, ma a prescindere da questo, caro Rivellini, qui il punto è un altro. È così necessario complicare la vita al Parlamento europeo? Perché il suo intervento poi non è come si fa a tradurre? È complicato? Guardi, no, invece non è complicato, perché oggi c'è su tutti i siti, c'è sui giornali, c'è sulle ANSA, l'intervento integrale in italiano e in napoletano, con le idee che io ho espresso, sbagliato, esatte, se si è d'accordo o meno, ma le idee che io ho espresso, la rappresentazione delle nostre problematiche che ho portato avanti, lo si deve anche a questo piccolo stratagemma che, purtroppo sono stato costretto a fare, perché siamo in un'epoca dove i media molto spesso, cioè, si interessano di queste cose solamente se c'è la parte anche un po' folcloristica, ecco, forse anche per questo. Ma guardi, noi dobbiamo essere pratici. Rivellini, lei continuerà? Guardi, io continuerò a difendere la mia terra. Vabbè, questo l'abbiamo capito, ma continuerà a parlare in napoletano al Parlamento europeo? Se ci sarà bisogno per difendere la mia terra che io continui a parlare in napoletano, lo farò. Se ci sarà, io le dico anche un'altra cosa, le preannuncio un'altra mia iniziativa, cosa che vedo che qui non viene fatta, che non viene fatto. Quando in commissione ci sarà qualche proposta che va contro gli interessi dell'Italia e del Meridione. Che poi è complicato capire cosa va contro l'interesse dell'Italia e del Meridione. Questo è il nostro mestiere. Vabbè, io non avrò paura di presentare anche 3.000 emendamenti. In napoletano magari. No, in napoletano. Ma perché lei mi vuol... a parte che io ripeto, me lo faccia dire, il napoletano non è un dialetto ma è una lingua, perché c'ha una grammatica, una letteratura. Va bene, perché è stata una lingua. Insomma, lei può immaginare, lei si immagina cosa potrebbe accadere se ognuno dei parlamentari, siccome ognuno dei parlamentari europei è nato in una regione, questa regione sicuramente ha una sua specificità, una sua cultura e magari un suo dialetto, una sua lingua. Adesso non addentriamoci in questa differenza. Insomma, se... so che no, va bene, infatti non mi volevo addentrare in questa differenza. Insomma, puoi immaginare che succede se ognuno si mette a parlare, non so, in alsaziano, l'altro in dialetto milanese, l'altro è un caos totale, sarebbe. Sì, ma questo, ma mi perdoni, il mio lavoro, il lavoro che 108.000 cittadini mi hanno indicato di fare, mi hanno autorizzato a fare, è quello di fare nel miglior modo possibile gli interessi della mia terra. Lei gliel'aveva detto prima che avrebbe parlato in napoletano ai suoi elettori? Certo, l'ha detto quando già era stato eletto, non so se l'aveva detto prima. No, l'ho detto in campagna elettorale. Senta, Rivellini, voglio sapere quanti voti ha preso lei? 107.880. 107.880, beh, un sacco di voti, Beh, non mi posso lamentare. Va bene, grazie, buona serata. Grazie a lei. Allora, intanto Matteo Salvini ci manda un messaggio. Matteo Salvini, eurodeputato della Lega Nord. Viva le lingue locali, napoletano, milanese. Non si metta pure lei, Salvini, a parlare in milanese al Parlamento europeo, sennò è la fine. Giorgio da Bologna, buonasera. Buonasera. Niente, dica. La cosa interessante di ieri sera, o meglio di stamattina, è vedere come gli esponenti di centrosinistra, appresi dati Auditel, abbiano festeggiato. E la cosa che deve stupire è che non hanno capito nulla. E veramente dico... Franceschini qualche giorno fa ha detto che i dati Auditel, anzi oggi in una lettera pure ha ribadito al Corriere della Sera che i dati Auditel per l'informazione vanno eliminati. Però insomma. Comunque lo dico da elettore di centrosinistra momentaneamente in prestito al PDL. Anche se tutti i terremotati avessero ricevuto una casa in mattoni, sì, una casa bellissima, con piscina, e non ci fosse più neanche una tenda, il risultato Auditel sarebbe stato lo stesso. Quello che la classe politica non riesce proprio a capire è che sta cambiando completamente il tessuto sociale e la percezione che la gente ha di quello che la circonda. Non che l'italiano se ne sbatta le palle del terremotato, solamente che ha un punto di saturazione molto basso, e queste cose non migliorano assolutamente. Cioè, quando uno vuole fare un qualcosa di celebrativo, gli italiani se ne sbattono, dice lei. Sì, cioè, appena uno arriva, prende una cassetta della frutta, si mette in piedi, si appunta una medaglia perché ha dipinto, che ne so, un palo telegrafico più bello degli altri, gli italiani tendono a tirargli dei pomodori o a sbattersene. E guardi che è una caratteristica che si vede anche nelle trasmissioni televisive, dove quando c'è il crollo del potente, il crollo del famoso, sì, l'audience sale, cioè, l'italiano... ma può darsi, Giorgio, la ringrazio, c'è il giornale radio, però poi non bisogna troppo ragionare sui dati di ieri, c'erano anche le partite di Coppa dei Campioni, di Champions League, per cui insomma diverse cose che si intersecano. Certo, fa impressione che la fiction su Canale 5, su Garco, abbia fatto non so quanto, oltre il 30%, il 40%, non mi ricordo, e insomma Porta a Porta si è andata molto molto male. Titoli del TG3. Dall'Ocse nuovo allarme disoccupazione per l'Italia, il peggio deve ancora arrivare. Marchionne, incentivi rinnovati o sarà un disastro. Berlusconi da Vespa, scontro sugli ascolti, PD flop e bollettino di regime, PDL il paese è con noi, Masi convocato in vigilanza. Casini, il premier offende l'UDC, alle regionali nessuna alleanza con il centrodestra, la Lega centristi incompatibili col nostro progetto. Ragazza marocchina uccisa dal padre a Pordenone, era contrario alla sua relazione con un italiano, le analogie con l'omicidio di Hina. Afghanistan è ufficiale, Karzai eletto al primo turno, ma gli osservatori denunciano 1,5 milioni di voti sono falsi. Da 15 anni subisco minacce, parla il magistrato che per primo ha indagato sulle navi dei veleni, il ministero ci rifiutò i fondi. Terremoto in Formula 1, Briatore via dalla Renault, Piquet lo aveva accusato di un falso incidente per favorire la scuderia. È morto Luciano Emmer, il regista che creò Carosello, un'intera generazione di artisti, da Totò a Mina, fu interprete dei suoi spot. Questo è il TG3 che insiste molto nei primi titoli, avete sentito, sulle discussioni anche dopo la trasmissione di ieri sera, Porta a Porta sul terremoto, Sky TG24. Occupazione per l'Ocse, il peggio deve venire e i prezzi tornano a salire. A fondo di Berlusconi a stampa e TV, coro di critiche da Rai e opposizione. Gli ascolti bocciano lo show del premier, Porta a Porta battuta da una fiction. Settore auto, Marchionne chiede incentivi o sarà disastro, Scajola è possibilista. Pordenone, 18enne marocchina uccisa dal padre perché amava un italiano. 4 extracomunitari espulsi per clandestinità, sono le prime condanne a Milano. Giappone parte l'era Hatoyama, primo premier democratico dal dopoguerra. Barroso raddoppia secondo mandato alla presidenza della Commissione europea. Briatore lascia, travolto dallo scandalo, abbandona Renault e Formula 1. Inter contro Ibra e la notte, a San Siro i nerazzurri sfidano il Barcellona. Mobili Iazzone Ciella. Perché saprà tutta la qualità con Iazzone avrai. Legni pregiati e grandi architetti che non hai trovato mai con Iazzone avrai. Stiamo cominciando con gli arredi e quando sarà finito le vede anche tutti, perché sono tutti materiali pregiati. Abbiamo scelto mobile su mobile, questo per esempio è un piano antisdrucciolo e c'è la comodità più assoluta, la qualità dei mobili è qui da vedere, abbiamo curato non soltanto la qualità ma anche il design in modo da fornire dei mobili di eccellente design. Guardi per esempio questo, è una cosa, ecco, è il frigorifero che è l'ultimo modello della più grande azienda che fabbrica frigoriferi. Qua stiamo montando, buongiorno, come va? Ciao, ciao. Ecco, qua stiamo montando la camera da letto, stiamo montando l'armadio, verranno consegnati tutti anche con gli attaccabiti. Quindi è veramente aperta la porta, c'è una casa non popolare, ma una casa di ottimo livello che farebbe bella figura nel centro di una qualsiasi nostra città. Gli appartamenti hanno tutto ciò di cui ha bisogno un appartamento per essere immediatamente vivibile, cioè le lenzuola, le coperte, gli asciugatoi e poi tutta la batteria di cucina, pentole, piatti, bicchieri. Come abbiamo visto a Unna. Esatto, esatto. Verranno consegnate nella stessa situazione, per cui le famiglie, una volta avuta la chiave, potranno immediatamente venire a viverci da subito. Mobili a Iazzone Ciella. Perché saprà tutta la qualità. Abbiamo iniziato così questa sera 800 24 00 24. Voglio farvi ascoltare però la voce di Gabriel Garco, che con la Fiction l'onore e il rispetto ha avuto un ascolto di oltre il 22%, non il 30 come ho detto prima, fa lo stesso, mentre Vespa, anche con quello che avete appena sentito con Berlusconi che illustra le meraviglie delle nuove case in stile Iazzone, ha avuto un ascolto del 13,47%. Gabriel Garco, la gente si vuole distrarre. Non posso che essere contento di aver vinto la serata, indipendentemente poi da quello che è successo, perché comunque c'era Silvio Berlusconi su Rai 1 e questo magari mi può dolere, perché magari stiamo facendo dei discorsi anche molto seri, però comunque il fatto che se la Fiction piace vuol dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro e non posso che esserne contento. In un certo senso si può dire che hai battuto il tuo datore di lavoro. No, perché comunque sia lui che si occupa di altre cose adesso. E come spieghi il successo dell'onore e il rispetto? Guarda, secondo me siamo in un momento in cui le persone hanno una gran voglia di distrarsi e con l'onore e il rispetto questo riesce, quindi lo vedono molto volentieri. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. E intanto nella casa madre, cioè Canale 5, cosa succede? Voglio farvi ascoltare Claudio Brachino, che è uno dei direttori di Casa Mediaset, che ogni mattina legge i giornali anche con l'aiuto di uno psichiatra, in questo caso, anzi credo che ci sia ogni giorno, non lo vedo, Alessandro Meluzzi. Non vi voglio tediare o non vi voglio annoiare con la lettura dei giornali da parte di Claudio Brachino e Alessandro Meluzzi, ma sentite come descrivono l'unità. Io voglio far vedere la prima pagina di un giornale che poi rispetto come tutti i giornali, no, questo è il giornale che dice la missione è compiuta, che forse dall'interpretazione l'ho scelto più normale, no? Quella che sarebbe la notizia così com'è. Vediamo l'unità che usa un termine che poi non è un termine dispregiativo, la televendita è un termine normale. Ricordiamo anche che nella TV commerciale le televendite permettono a molte famiglie di avere uno stipendio, no? Perché fare un titolo di questo tipo? Come se fosse appunto uno spot, se fosse appunto un consumo. Sono state consegnate delle case vere, a delle persone vere che ne avevano bisogno, che hanno detto cose anche commoventi, tornano a fare la pizza. Claudio, c'è una nevrosi che si chiama scoptofilia, che è l'amore delle cose sporche. Di solito questa nevrosi è sempre legata a degli aspetti paranoici di aggressività verso gli altri. E quindi la scoptofilia ci porta sempre a cercare ciò che è sporco, ciò che è brutto, ciò che è sbagliato, perché di questo dobbiamo fare un utilizzo. Allora è chiaro che una notizia positiva invece va neutralizzata, questo è un meccanismo antico. Com'è che si chiama scoptofilia? Ho imparato una nuova cosa da Meluzzi. Insomma, il gusto per l'orrido, il gusto per lo sporco, il gusto per le cose negative, per le cose brutte, è quello che avrebbe l'unità nei confronti del Presidente del Consiglio, ma in generale. Ora, per carità, si può dire tutto dell'unità, figuriamoci, qui lo facciamo spesso, del modo in cui affronta le cose, però ecco, insomma, coinvolgere pure uno psichiatra, uno psicologo, questo non so bene come definire, Meluzzi, che ci parla di scoptofilia a proposito dell'unità, e su questo mi sembra francamente un po' eccessivo. Andiamo sempre su Berlusconi e sui farabutti, facendovi ascoltare però la premessa del discorso sui farabutti, la distorsione della RAI che attacca una parte politica. Cioè Vespa a un certo punto gli chiede abbastanza timidamente: ma Presidente, non c'è un problema per il fatto che lei nomina i dirigenti della televisione pubblica e nello stesso tempo è proprietario dei mezzi di comunicazione, cioè è proprietario di Mediaset. Lui dice no, perché la RAI che attacca una sola parte politica, cioè la mia. E dopo parla dei farabutti. Sentiamo i farabutti. Farabutti. Quindi la manifestazione che per la libertà di stampa che l'opposizione sta mettendo in atto è veramente il contrario della realtà. Siamo circondati nella politica, nella stampa e, ahimè, nella televisione da troppi farabutti. Troppi farabutti, avete ascoltato. Chi sono questi farabutti? Chissà. Va bene, 800 24 0024, Enrico Mentana, questa mattina ospite di Radio 3, sulla manifestazione per la libertà di stampa di sabato. Non ci andrò perché c'è la politica, una manifestazione troppo politica, sentite. Ci andiamo o non ci andiamo alla manifestazione sabato per la libertà di stampa? Io non vado a manifestazioni dove ci sono i politici. Non vado a manifestazioni. Cioè, se ci fossero solo giornalisti? Se ci fossero solo giornalisti, bisognerebbe vedere come. Se mia nonna avesse le ruote. Questa è una convocazione politica, soprattutto. Mm. Così come molte cose dell'anti-berlusconismo sono fatte da chi è anti-berlusconiano da 15 anni. Va bene. E questo è Mentana. Poi sulla scelta Rai discutibile a proposito della trasmissione di ieri sera Porta a Porta, ancora Mentana. Candidamente Silvio Berlusconi ha detto che non è stato lui a chiedere quella prima serata e che lui sarebbe andato molto più volentieri in seconda serata a parlare in maniera piana di tutto, sì, potendosi quindi vedere anche la partita del suo Milan, e peraltro avrebbe fatto bene perché, certo, ha avuto un ottimo risultato. Onde per cui, visto che nessuno e neanche il conduttore l'ha contraddetto, è stata una scelta della Rai. Una scelta molto discutibile da questo punto di vista, mi permetto di sottolineare, proprio perché si dà un palcoscenico che non potrà essere dato a nessun altro, a pena di vedere Casini in prima serata martedì prossimo, Franceschini ha già detto che non ci andrà, o se sarà Bersani o Di Pietro, ecco. Non sarà così, non avverrà così. Allora sarebbe stato opportuno, scelta per scelta, tenere il punto e fare una cosa sul terremoto. Così, certo, è diventata un'altra cosa. È diventata un'altra cosa, cioè, secondo Mentana, una celebrazione. Non c'era un'eccezionalità. Tutti i telegiornali, peraltro, hanno fatto vedere le cerimonie e l'orgoglio legittimo per un'azione dello Stato di ricostruzione, di supporto alla ricostruzione, che è stata obiettivamente positiva e lodevole. Però farci una trasmissione straordinaria in prima serata correva il rischio di essere celebrativo. Secondo me la cosa si è fatta ancora più discutibile nel momento in cui, vedendo la trasmissione, si è capito che a un certo punto poi la questione della ricostruzione sarebbe stata abbandonata per parlare dei soliti temi della politica. E lì si dava evidentemente una luce diversa, un'inquadratura diversa, un'illuminazione diversa a temi che in genere non vanno in quella collocazione e con un protagonista che non aveva un contraddittorio adeguato. Mi scuso per i colleghi giornalisti. Al di là del contraddittorio, l'osservazione non è campata in aria, perché effettivamente prima si dice di voler fare una trasmissione solo sul terremoto e poi si parla anche delle altre cose, cioè delle polemiche sulla libertà di stampa, della manifestazione, di Repubblica. A un certo punto il Presidente del Consiglio ha fatto una lunga tirata contro Repubblica, poi ha parlato anche dei farabutti, eccetera. Insomma, non è che si è parlato solo del terremoto. Si è persa la natura della trasmissione, il primo motivo per la quale quella trasmissione è stata creata. Io, Presidente, lavoro qui alla RAI da 40 anni e so che sotto tutti i regimi il partito di maggioranza di qualunque colore ha avuto l'influenza su questa azienda. Ora lei presiede il governo, lei quindi, come tutti, come è successo sempre, ha un'influenza su questa azienda, ma ce l'ha pur essendo proprietario dell'azienda concorrente. Questo può procurare qualche distorsione. Io le dico che le distorsioni sono queste, che la RAI, pagata con i soldi di tutti i cittadini, è l'unica azienda, televisione pubblica al mondo, che attacca una sola parte politica, in questo caso il governo. Attaccava la stessa parte politica quando noi eravamo all'opposizione. Lei mi citi una trasmissione RAI a favore del governo e della mia maggioranza, io le posso fare un elenco lungo che lei conosce, partendo da Anno Zero, da Report, da Ballarò, da tutti gli spettacoli di seconda serata della RAI 3, tutte trasmissioni sempre unicamente contro la mia parte politica e contro il mio governo e molto spesso anche contro di me. Io non guardo più la televisione perché, accendendo la televisione RAI, c'è sempre di mezzo Berlusconi, che ormai è diventato il simbolo del male e di ogni male. gli italiani lo sanno, il 68% dà a me la propria fiducia e il proprio consenso, e quando guarda la televisione si rende conto che la realtà è questa. Vabbè, insomma, è il solito Berlusconi. Siamo tornati con questo frammento audio della trasmissione di ieri sera, perché c'è anche una negazione di una realtà che anche quelli che non sono necessariamente anti-berlusconiani ammettono candidamente, cioè che esiste una distorsione nel sistema informativo televisivo italiano. No, secondo Berlusconi questa distorsione, questa anomalia non esiste, semplicemente perché secondo lui la maggior parte delle trasmissioni Rai, dove pure mette becco questa maggioranza e come se mette becco, sono indirizzate contro Berlusconi. Ora, naturalmente ci sono trasmissioni di un certo tipo, sicuramente Berlusconi è al centro dell'attenzione da un sacco di anni, però insomma, mi sembra un negare la realtà, il fatto che esista una distorsione, e tutto questo di fronte a una timida, certamente, domanda di Vespa sul conflitto di interessi. Dove andiamo? Andiamo a Roma da Donato. Buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Innanzitutto volevo farle i complimenti per la trasmissione, ma questo è scontato. Volevo tornare un attimo sul tema della consegna delle abitazioni a sì. Donna. Innanzitutto, a mio avviso, è stato un evento di portata eccezionale, perché credo che nessun altro periodo storico ci sia realizzata un'opera del genere. Se permette, devo farle un appunto per il modo in cui è introdotto l'argomento oggi. Ma in che senso evento eccezionale, mi scusi? Eccezionale per la tempistica e per ovviamente anche per la qualità delle abitazioni realizzate. Come ha avuto modo di vedere anche lei, non si tratta di abitazioni popolari che dopo 10 anni cascano a pezzi. Sono abitazioni di una certa qualità e consegnate anche in tempo molto celere, questo intendo. No, ma questo nessuno lo mette in dubbio. C'è bisogno di questa gran cassa intorno a una vicenda di questo tipo oppure no? La gran cassa relativamente, nel senso che questo è soltanto il primo tassello di un'opera generale che va a compiersi ovviamente nei prossimi mesi. Però l'importanza dell'evento c'è e se deve servire a impulso per dare rinnovata forza nella realizzazione del resto delle abitazioni. Questo è il mio punto di vista. Ecco perché non condivido il modo in cui ha introdotto l'evento, mettendoci sotto la musica di Aiazzone, dello spot di Aiazzone. Ma qui si fa anche satira ogni tanto, insomma, con tutto il rispetto per la satira, naturalmente noi siamo una piccola cosa, ogni tanto giochiamo e scherziamo su queste cose, però il tono della visita di Berlusconi in quelle case, che non sono quelle di Onna, ma altre case che saranno consegnate tra poco, il tono era un po' da quello che illustra le bellezze di dei mobili e degli arredi, era un po' da venditore, ma non è la prima volta, insomma, non c'era niente di offensivo, semplicemente un po' di si potrà pure giocare su queste cose oppure no. Vabbè, ma l'argomento mi riconosce, è molto serio, si tratta di persone che fino a poco tempo fa stavano sotto le tende esposte alle intemperie e adesso invece si trovano in un'abitazione dignitosa di ottimo livello. Non è possibile dileggiare questo intervento. E chi lo dileggia? Fare satira, scherzarci sopra, prendere in giro il modo in cui Berlusconi illustra le cose o il modo in cui Franceschini ogni tanto dice altre cose, non mi sembra dileggio. Sono argomenti di carattere prettamente politico e attengono al dibattito politico, non fa niente, ma qua sono persone, sono vicende che interessano persone e interessano ovviamente la loro vita. Vabbè, ma ognuno fa il suo mestiere, c'è chi tratta queste cose in maniera solo seriosa, noi le trattiamo ogni tanto in modo serioso, ogni tanto invece ci scherziamo sopra, ognuno ha il suo compito. La ringrazio, Donato. Mauro, provincia di Alessandria, intanto mi avvertono che la scoptofilia è sinonimo di voyeurismo e non di amante di cose sporche. Scoptofilia, secondo il dizionario Oepli, questo ci segnala un ascoltatore. Va bene, pronto. Mauro, provincia di Alessandria. Pronto, buonasera. Pronto? Sì, prego, dica. Buonasera, complimenti per come ha intervistato prima il parlamentare europeo. Mi permettevo solo di fare un commento. Un discorso tenuto in napoletano di fronte a un uditorio che non può capirlo. È un, a mio parere, modesto parere, un palese atto di, mi perdoni il termine, ruffianeria verso i propri elettori e basta. Lui ha fatto una promessa, è una promessa fine a se stessa, ha promesso ai propri elettori di andare a parlare in napoletano L'ha fatto, benissimo. Mi permetto di fare una piccolissima domanda agli elettori. Cosa è cambiato per voi dopo che questa persona ha fatto questo? Un oratore che parla di fronte al proprio uditorio in una lingua che l'uditorio non può capire non mi sembra una grossa soluzione, soprattutto un grosso risultato. Mauro, sono d'accordo con lei, la mette giù in maniera abbastanza dura, la mette in modo serioso, tanto per riprendere un po' l'argomento dell'ascoltatore precedente, però in fondo ha ragione. Non credo che i suoi elettori siano rimasti particolarmente colpiti dal fatto che l'onorevole deputato europeo Revellini si sia espresso in napoletano nell'emiciclo di Strasburgo, semplicemente non gliene frega nulla. Lorenzo da Roma, buonasera. Buonasera. Dica, Lorenzo. Voglio comprare una delle 70.000 euro. Come, scusi? Voglio comprare un villa, tipo 70.000 euro, un'altra offerta. Lorenzo, non capisco, lei vuole comprare che cosa a 70.000 euro, mi scusi? Una delle ville. Uno delle ville di cosa? Quali ville? Sì, quelle di là, quello che sto parlando. Ah, lei vuole comprare, ma non sono in vendita? Non so, sembrava una televendita, sembrava una presunzione di Vanna Marchi. Addirittura Vanna Marchi, noi abbiamo messo Iazzone. Ma di solito le case non è che si vendono così tutte riempite, già pronte, cotte e mangiate, di solito si vendono vuote comunque. Volevo dire una cosa però molto importante, sì. Io credo che Berlusconi non sia il migliore Presidente del Consiglio dei 150 anni, ma credo che sia il più meschino, e spiego perché. Che sia allora, il più meschino. Il più meschino, addirittura, meschino, Lorenzo, sì. Il più meschino. Ma le adesso. Dico perché. Mi dica perché, ma tanto qualsiasi cosa dice, insomma, già secondo me muore in partenza e dice il più meschino, mi sembra. Le dico perché. Mi dica perché. Secondo me, nella storia d'Italia, sì. Non c'è stato un Presidente del Consiglio che si accaparrava così tanti meriti e scaricava più colpe sugli altri. Mi contesta questo? Può darsi che sia così, le colpe sono tutte degli altri, guardi, i meriti sono tutti suoi, ma questa che c'entra la meschinità con questo ragionamento? Qualsiasi politico tende a scaricare sugli altri e a darsi tutti i meriti. Le faccio un esempio, il clarificatore proprio, secondo me. Secondo lei, che giustificazione c'è? Come l'autorizza una persona che scarica la colpa della propria separazione sulla propria moglie? E scatena i suoi giornali contro la moglie. Guardi, Lorenzo, lei parte da due assunti che spacciandole queste cose come verità assoluta, la responsabilità della separazione è solo della moglie, questo io non ho mai sentito dire a Berlusconi. Scatena i suoi giornali contro la moglie, non so a cosa si riferisce, ma insomma ci sono varie interpretazioni su queste vicende, una è privatissima, l'altra è il modo in cui i giornali che più o meno sono di area berlusconiana hanno reagito a questa vicenda della separazione e all'esternazione di Veronica Lario. Però insomma, mi sembra che lei parta da due conclusioni che non sono affatto certe, o no? Ma guardi, di certo non c'è nulla, io ovviamente non posso chiedermi sui media, insomma, la media che li controlla strettamente. Dipende però da cosa si legge. Non mi contesterà il fatto che Berlusconi ha detto che secondo lui la colpa del divorzio era perché la sinistra e l'Espresso, Repubblica, ha montato un caso e per colpa di questo Veronica se l'ha fatto un'idea, ha portato alla separazione. E poi ha detto, non si dire che io non sono un santo, mi piace sì, Lorenzo, dove vogliamo arrivare? Non ho capito, lei per queste cose pensa che Berlusconi sia un personaggio meschino, è così? Credo di epidermicamente sì. Vabbè, ma guardi, epidermicamente sa, quello ognuno ha le sue sensibilità. Non sento bene, però volevo dire che lui, siccome è un manager, sì. Dovrebbe avere qualità di appunto di management, team lead, una cosa. Beh, Lorenzo, guardi, non sentiamo più nulla, cerchiamo di riprendere la comunicazione perché sentiamo male. A proposito, mi ha fatto venire in mente una cosa: i 150 anni di De Gasperi. Ieri, durante Porta a Porta, è tornato su questo argomento e non molla Berlusconi, anche di fronte a un Vespa piuttosto scettico sul fatto che Berlusconi sia il presidente del Consiglio più bravo degli ultimi 150 anni. Sentite. Io l'altro giorno, ironicamente, sorridendo, parlando e rispondendo a una domanda irriverente e e anche diffamatoria di un giornalista straniero, ebbe a dire che guardando l'elenco di tutti i presidenti che c'erano stati nei 60 anni della Repubblica, mi sentivo di essere meglio di qualunque di questi presidenti. Scusi, e ha sbagliato. No, non ho sbagliato. Perché così. Non c'è nessuno De Gasperi, ma lasci stare, De Gasperi aveva rispetto. È un padre della patria, ha governato per quasi il tempo che ho governato io, sto governando da qualche giorno di più di lui. Aveva un difficile compito per quanto riguarda la politica estera, ma per quanto riguarda tutte le situazioni di operazione interna non c'è assolutamente paragone tra quello che ha fatto e sta facendo questo governo e quello che hanno fatto i governi di De Gasperi. Se vuole, a singolare attenzione, la sfido a mettere in confronto le cose che hanno fatto quei governi e le cose che hanno fatto e sta facendo il mio governo. Parliamo in un'altra occasione. Ecco. Sfida raccolta, dunque avremo una sfida tra Vespa e Berlusconi su chi ha fatto meglio per quello che riguarda la politica interna tra i governi De Gasperi e Berlusconi. È veramente una cosa ridicola, perché non si capisce su quali possano essere i parametri di confronto tra le cose fatte o non fatte dal governo Berlusconi e le cose fatte o non fatte dai governi De Gasperi. Vi rendete conto di cosa si discute a porta? Michele da Salerno, buonasera. Salve Cruciani, buonasera, la ringrazio per l'opportunità che mi sta dando. L'attesa che ho avuto fino adesso è proprio perché interloquire con lei è sempre un... Michele, vada al sodo. Allora, le dico subito, faccio subito la professione di voto, in modo che non ci siano equivoci, sono elettore di centrodestra, ma al presidente Berlusconi, se c'è una cosa che posso appuntare, è proprio il modo in cui ha la sua strategia comunicativa, so di dire un'eresia, però non fa altro che sminuire e dare poi prestare il fianco alla sinistra, che trascina poi le discussioni sempre su argomenti che sono stucchevoli e futili. Un argomento che è di una straordinaria importanza, come il fatto di aver dato casa a della gente, viene poi portato a discussioni sulla RAI, sull'Auditel e cose del genere. Io vorrei dire semplicemente una cosa: io ho vissuto sulle mie spalle il terremoto degli anni Ottanta. E soltanto chi ha vissuto una situazione del genere è in grado di capire la drammaticità di una situazione che può vivere una persona che è senza casa. Qui in Campania sono nemmeno 10 anni che questa situazione è stata risolta. Non sono neanche 10 anni che sono stati smantellati i villaggi di legno, i container. C'è gente che c'è stata per 25 anni. La sostanza del discorso, a parte poi tutta il teatrino che ne può fare la televisione, la sostanza del discorso che è stata data casa a gente in 6 mesi. Qui c'è gente che è stata 20 anni nei container. Ho capito Michele, però io dico questo, sono d'accordo, ci sarà sicuramente una differenza, sono cambiati i tempi, ci mancherebbe altro che fossimo rimasti ai tempi di consegna delle case o ai disastri del post Irpinia. Ma che bisogno c'è di mettere su un ambaradan di questo tipo per la consegna delle prime case a donna? Ma va benissimo, ci sono i telegiornali, c'è la cronaca, non c'è bisogno di cambiare i palinsesti, non c'è bisogno di questa gran cassa. Presidente Berlusconi, magari dico un'eresia, ma la sua strategia di comunicazione, che secondo me è sbagliata, perché la sostanza dei fatti parla chiara da solo, è inutile mettere in piede certi teatrini come quelli di Porta a Porta, perché poi la gente che le cose vengono fatte lo vede, soltanto che mettendo queste cose in piazza poi c'è chi comincia ad attaccare sulla RAI, è quello che diciamo ieri, certo, la ringrazio Michele, risentiamo uno dei protagonisti di giornata, che è un napoletano parlamentare europeo, il quale, ripeto, in maniera incredibile si è messo a parlare in dialetto, in lingua, dice lui, all'interno del Parlamento europeo, così, perché secondo lui si protegge la gente del meridione. Andiamo. Parli in napoletano, o napoletano è una lingua, con una grammatica, una letteratura, non è un semplice dialetto. Presidente Barroso, l'ha già votato, e le chiedo di essere presidente di tutta Europa, pure Eurosud, perché Eurosud è a porte dell'Europa e sta a mezzo Mediterraneo. Eurosud unisce mondi diversi, la storia, la posizione geografica, la cultura e l'accoglienza, e può fare assai tutto. Che poi non era in napoletano vero e proprio, aveva delle parti in italiano, era un po' mischiato, insomma. Io sono dalla parte di quello che diceva time please e probabilmente non capiva nulla, napoletano e anche verace, anche se credo non abiti a Napoli da diverso tempo, Pasquale Squitieri, buonasera. Buonasera carissimo. Eccoci qui. Come si fa a Squitieri al Parlamento Europeo a parlare in questo modo? Secondo lei è una, così, uno scherzo, un'esibizione ridicola o che cosa? No, posso dirle una cosa per qualche secondo. Io ho accompagnato Bettino Craxi e ho ripreso, ho filmato Bettino Craxi alle Nazioni Unite quando ha parlato per il piano Bredi sulla fame nel mondo. Benissimo, lui aveva preparato tutto il discorso in italiano e l'italiano non era tradotto al Palazzo delle Nazioni Unite, per cui dovette di notte inventarselo in francese. Però c'erano tradotti 40 dialetti arabi. Addirittura? Sì, capito? Allora, il problema, sì, è una provocazione, poi l'ho ascoltato, non è napoletano. No, grazie, infatti, però. Non è napoletano. È così, è una provocazione, per dire, è logico, ognuno difende la propria cultura in un'Italia che non si è mai unita. Noi siamo rimasti con la cultura della Lombardia, la cultura del Piemonte, la cultura della Campania, del Lazio. Ma lei si immagini poi i parlamentari europei, gli interpreti, le traduzioni, già... Era molto comprensibile anche a livello... Sì, una provocazione. I traduttori certo non l'hanno capito. Vabbè, Squitieri, però lei fa il regista fondamentalmente e ha fatto un sacco di film. Allora, vorrei... Ha letto napoletano. Assolutamente, vorrei sapere da lei come ha preso l'uscita di Brunetta dell'altro giorno contro i cineasti Succhia Soldi. Gliela faccio riascoltare perché è un pezzo memorabile, eccezionale. Sentiamo. È certo culturale parassitario, vissuto sempre solo di risorse pubbliche le vostre e che sempre... ha sputato sentenze contro il proprio paese. Quello che per intenderci si può vedere in questi giorni alla Mostra del Cinema di Venezia. Cosiddetti artisti o registi che hanno delle tabelline molto, gli score molto chiari nel loro curriculum, hanno ricevuto 30-40 milioni di euro nella loro carriera per fare i loro film e quegli stessi film hanno incassato 3-4 mila euro. 30-40 milioni di euro ricevuti da tutti noi per produrre cultura e ai botteghini hanno incassato 3 mila euro, 4 mila euro in tutta la loro vita, non per un film. E questi stessi autori, registi, nobili, con la faccetta sempre sofferente... ti spiegano che questa Italia fa schifo, che questa Italia non gli piace, che ne vorrebbero un'altra, salvo che loro non hanno mai lavorato per un'Italia migliore. Non hanno mai lavorato! Beh, Squitieri, comunque la si pensi, è una cosa da numeri uno, da spettacolo, da cinema, da non so da che cosa, io la metterei di continuo. Sì, posso fare una premessa? Certo. Il cinema è l'unica arte interdisciplinare, cioè c'è un buon film quando c'è uno scritto buono, quando c'è una musica buona, quando c'è una scenografia buona, quando c'è una fotografia buona, quando c'è una recitazione buona, eccetera, e anche una regia buona. Quindi, dunque il cinema è cultura, secondo me, perché Brunetta ha continuato a dire anche oggi, credo... È cultura nel modo più ampio possibile, perché investe tantissime attività culturali, non so se mi spiego. Dunque, secondo lei Brunetta, quando dice che il cinema è divertimento e non è cultura, dunque non deve essere finanziato, manco una lira, sbaglia? No, guardi, Brunetta dice delle cose che effettivamente non sono condivisibili, anzi sono offensive. Il problema è questo: se stiamo a guardare il botteghino, se stiamo a guardare quanto incassa un film, Umberto D, che è un capolavoro assoluto della cultura mondiale, non del cinema, ha incassato 2000 lire perché è stato 3 giorni al Balberini. Mi scusi l'ignoranza, Squitieri, veramente mi scusi dell'ignoranza, ma che è Umberto D? Umberto D è un capolavoro di Vittorio De Sica che ha vinto il premio Oscar, tra l'altro. Non lo sapevo, mi perdono l'ignoranza. Allora, io le perdono, ma è gravissimo. Umberto D è un capolavoro della nostra cultura. Non me lo ricordavo. L'avventura di Michelangelo Antonioni non ha incassato una lira, ma è un capolavoro della nostra cultura. Il Gatto Pardo di Visconti, quando uscì, non incassò una lira, ma è un capolavoro della nostra cultura. Quindi lo Stato deve proteggere la cultura della nazione. Però, mi scusi, quelli erano altri tempi, naturalmente. No, non erano altri tempi. Io sono stato a un festival di Messina dove ho visto alcuni film di giovani autori di cinema italiano ottimi, che sono stati finanziati, non hanno incassato una lira. Perché scusi, però l'ottimo chi lo decide se uno è, se una cosa è ottima, se è una grande, se è una grande prestazione? Come spettatore, come cineasta, di aver visto degli ottimi film. No, ma quando Brunetta dice qui c'è un sacco di gente che ha preso i soldi dallo Stato e poi non ha incassato niente al botteghino, ogni giorno leggiamo cronache. È una stupidaggine. Perché i più grandi autori del nostro cinema col botteghino non sono mai andati d'accordo. Le parlavo di Antonioni, di Rossellini, di De Sica, dei grandi maestri. Lo stesso Fellini non ha incassato una lira. Il problema non è il botteghino, ma ci sono romanzieri, come diceva Manzoni, mi rivolgo ai miei 25 lettori. Cioè, il problema è che Leopardi non è che mentre scriveva poesie si fosse preoccupato di quante copie avrebbe venduto il libro. Il problema è che lo Stato o protegge la cultura rimettendoci, perché per esempio ci si rimette con la Scala di Milano, però come si fa a rinunciare alla Scala di Milano? Ci si rimette probabilmente con tanti musei, ma come si fa a rinunciare alla cultura espressa? Ma infatti Brunetta non parla di musei, fa questa divisione che è un po' artificiosa tra tutto quello che è cultura e il cinema, che non è cultura ma è divertimento. Come non è cultura il cinema? Infatti questo è molto contestabile, oggettivamente è contestabile. Non solo è cultura, ma usufruisce di tante culture che convergono verso il prodotto cinematografico. Ho capito. Senta, però i capolavori di cui parlava lei prima non hanno preso soldi dallo Stato, è diversa. Non è che hanno preso soldi no, dallo Stato. No, ma non dobbiamo guardare al botteghino, cioè ammettiamo il privato, Carlo Ponti. Sa chi è Carlo Ponti? Sì, questo lo so. Ecco, Carlo Ponti. Non mi affossi così. Già. Carlo Ponti era il produttore di Antonioni. Sì, sì. Lui sapeva benissimo che con Antonioni non sfondavano i botteghini, non c'era la coda al cinema. Però Antonioni gli dava un grande prestigio perché è un grande autore di cinema. Sì. Per pagarsi Antonioni faceva un cinema più commerciale da altre parti. Come diceva Roberto Rossellini, solo il cinema commerciale può finanziare il cinema culturale. Sì. Ora, lo Stato non finanzia, per esempio, i film di Natale, e sbaglia. O lo Stato finanzia tutto il cinema, compreso Tinto Brass, il suo erotismo, e quindi guadagna da una parte, dall'altra parte poi ci rimette, perché un film di Bellocchio probabilmente non trova le code fuori della sala, però Bellocchio è un grande autore del nostro cinema. E come si fa a non produrre un film di Gianni Amelio, di Bellocchio, di Cito Maselli, di tanti registi che sono bravissimi e che ci rappresentano? Insomma, secondo mondo. Lei il confronto col botteghino è un qualcosa, sbagliato è sbagliato da parte dello Stato, perché o lo Stato difende l'editoria perché ci sono scrittori che vanno tutelati eccetera, sì. E poi magari finanzia anche un'attività editoriale più commerciale, sì, più, sì. Ma è sbagliato, lo Stato non può pretendere che un autore, chiunque sia, un autore di musica, un autore letterario, un autore di cinema, un autore si confronti col botteghino. Ecco, si confronti col botteghino. Modigliani non ha mai venduto un quadro, allora bisogna uno così bisogna buttarlo fuori. Poi naturalmente bisogna vedere, Squitieri, e la ringrazio, come vengono poi distribuiti questi fondi, naturalmente le varie lobby, le varie pressioni. In Francia funziona in maniera completamente diversa. TG5. Sana, 18 anni, marocchina, uccisa dal padre a Pordenone perché amava un italiano. Rabbia e indignazione. Il ministro Carfagna, parte civile al processo. Le presidenziali in Afghanistan, vinte da Karzai. Gli osservatori europei, manomesso un quarto delle schede. Il presidente, sono degli irresponsabili. Opposizioni all'attacco dopo l'intervento a porta del premier. L'accusa, show propagandistico. Replica il PDL, polemizzano persino sulle case ai terremotati. Per i casi più gravi di miopia, arrivano lenti di nuova generazione inserite davanti all'iride con una minuscola incisione, offrono un'alternativa al laser. Chi insulta la suocera dovrà pagare i danni alla moglie, lo stabilisce la Cassazione, la sentenza dopo una lite tra due coniugi romani. Commuove la Francia la storia di Mambo, un meticcio dato alle fiamme per noia da due ragazzi. Sopravvissuto, assiste in aula alla condanna dei suoi aguzzini. Flavio Briatore lascia il team Renault dopo il caso del presunto falso incidente a Piquet. Con lui la Renault ha vinto 4 mondiali. Scene da Porta a Porta di ieri sera, prese da Blob in diretta, sentite. Non me lo ricordo, però aiutami, perché sicuramente l'avrei fatti dei pezzi in mia difesa. Quando io facevo le trasmissioni di pomeriggio e le prime serate politiche le faceva Lilli Gruber, tu sicuramente mi avrei difeso, ma non me lo ricordo, Sansonè. Come la guarda, Vespa, non mi lascia sto tormento, figlio mio, dai. Guarda Vespa, io non me lo ricordo neanch'io. Ecco, bravo, ho dai. Il sospetto che, che tu non sei uno dei giornalisti con meno voce in capitolo in Italia, diciamo. Ho il sospetto che tu hai sempre pesato nell'informazione italiana. La provvidenza non sento... dura, poi ho ricominciato a parlare dopo il 94. Va bene? Vespa, ecco, anche a me allora, mi hanno fatto fuori da due o tre giornali varie volte. Io volevo dirti soltanto questo. Se non è stata una tragedia, allora, come tutti i giornalisti perfino, varie volte, da direttore e da condirettore... Sono scusami, stato fatto fuori, ma non è un dramma. Gli anni in cui volevano chiuderla, non mi pare di aver avuto grandi solidarietà sui giornali. Questo gigantesco casino, perché si sposta di due giorni, due, una trasmissione. Io al posto di Floris mi sarei infuriato pure io, però, figlio mio, dai, riportiamo le cose, la libertà di stampa. Di più TV, se non ci fossi tu. La ricerca del lavoro può essere lunga. Dopo mille... E va bene, era un piccolo... Un piccolo pezzo, un piccolo stralcio della trasmissione di ieri sera con Piero Sansonetti, direttore dell'Altro, e con Bruno Vespa, particolarmente arrabbiato. Alberto da Torino, prima dei titoli del TG1. Alberto. Buonasera, dottore. Dica. Io volevo parlare relativamente all'argomento dell'europarlamentare napoletano. Sì, devo dire che si è sviluppata una piccola discussione e con i messaggi SMS sulla questione di Umberto D. Vai a vedere questi film, è incredibile con il lavoro che fai tu non abbia visto Umberto D. Un altro scrive: così capolavoro che Umberto D non lo conosce nessuno. Sono del 75 e sapevo della grande importanza del film Umberto D. Che delusione, si aggiorni Clemente da Maddaloni. E poi ancora altri messaggi di questo tipo. Umberto D è un film bellissimo, drammatico, girato a Torino, se lo vedrà, si assicuri prima che non ci siano persone troppo sensibili, eccetera, eccetera. Lei fa la morale al cinema e non ha mai sentito parlare di Umberto D, si occupi d'altro, magari con il ministro, e altri insulti di questo tipo. Non essendo un fissato con il cinema, francamente Umberto D non lo conoscevo. Sarà grave, ma è così, confesso. Ancora da Blob, il Berlusconi che illustra i mobili. Verranno consegnati tutti, anche con gli attaccabiti. Aiazzone è tornato. Quando il dito indica la luna, lo sciocco guarda il dito. L'informazione è il dito, la luna sono le case. Sai il vecchio detto come dice? Ma no? Insomma è Blob, ma in realtà indica... è quello che abbiamo fatto alla Zanzara. Allora, eravamo con Alberto da Torino. Prego Alberto. Sì, facendo una piccola premessa che non sarebbe, io non sono assolutamente d'accordo col tipo di intervento che ha fatto, ma non perché l'europarlamentare sia napoletano e l'abbia fatto in napoletano. In qualsiasi dialetto o in qualsiasi argot o in qualsiasi slang l'avesse fatto, mi sembra una mancanza di rispetto verso un'istituzione che già fatica, come anche lei ricordava, a trovare la propria dimensione e il proprio rispetto. Vorrei vedere la cosa da due punti di vista. Dal punto di vista dell'italiano ritengo che abbia perso una grande opportunità questo ruolo parlamentare, perché effettivamente l'operazione di marketing è riuscita perfettamente, è riuscita a far parlare di sé. Il problema è che poi non ha detto niente, questo non aver detto niente non vuole essere un giudizio, ma semplicemente nel momento in cui sei riuscito a mettere tutti i riflettori intorno a te e hai promesso ai tuoi elettori di portare un messaggio e poi racconti la questione meridionale eccetera, che sono senza offesa i soliti discorsi che si sentono fare ormai da 30 anni e che purtroppo non hanno mai portato a nulla. Da europeo, e concludo, da europeo invece vedo la cosa in modo, nel solito modo in cui si vedono in Europa queste cose. Con un sorriso, con un po' di pena, un po' di frustrazione, perché comunque io viaggio molto e mi dispiace che ci siano continuamente degli esempi che insomma mettono un po' a ridicolo quello che è l'italianità. Un po' è così, e come ci ha raccontato lei, soprattutto perché poi questo Revellini parla tanto del Sud e ci ha detto e ha detto al Parlamento Europeo, non solo a noi, delle cose di una banalità incredibile. Abbiamo i titoli del TG1. Pordenone, 18 anni, marocchina, uccisa dal padre musulmano, ferito il fidanzato italiano che tenta di difenderla. OCSE, economia in ripresa, cresce la disoccupazione in Italia, salirà oltre il 10%. Sacconi, noi meglio del previsto. Reato di clandestinità, prime condanne a Milano, ammenda o espulsione, ma i tempi non sono brevi, la sentenza va in appello. Pronto a incontrare Rose e Olindo se si pentono al digiuno Carlo Castagna nella strage di Erba verse moglie, figlia e nipote. Barroso presidente della Commissione europea e oggi a Strasburgo traduttori nel panico per un intervento in napoletano. Formula 1, Flavio Briatore non è più il capo della scuderia Renault dopo lo scandalo di un presunto falso incidente. Va bene, la pubblicità tra un attimo, prima però voglio sentire Roberto da Roma, buonasera. Buonasera, volevo intervenire circa la tempistica della consegna delle case in Abruzzo. C'è un articolo di Antonello Caporale ieri su Repubblica in cui dice che ai tempi dell'Irpina furono consegnate in 122 giorni, quindi sì, sì, anche molto prima, un numero superiore di casette in legno che dettero ospitalità a 450 persone. Detto questo, sapere tutta questa cosa dei record, della tempistica, mi sembra un po' anche di cattivo gusto, nel senso che... No, no, ma anche so condivido, insomma, sbandierare questa storia dei record... Mi sembra anche forse di cattivo gusto, no, ma insomma non c'è bisogno. Sì, insomma, anche perché poi alla fine è un po' sulla pelle di chi ci ha rimesso la casa, la guardiamo bene. Quindi è un po' un annuncio, uno spot. E a questo punto mi volevo anche ricordare, non so se vi ricordate, la famosa ospitalità nelle case di Berlusconi, che disse subito all'indomani del terremoto che possono ospitarsi nelle ville, eccetera. Un'altra butade, cui non c'è stato poi ovviamente nessun seguito perché non se ne è più parlato. Quindi insomma, ora, le altre cose ce le conosciamo, mi sembra che questo governo vada avanti così per annunci, ma neanche veri, poi neanche verificabili, ma non veri, ecco. Non so, quella cosa là della promessa di Berlusconi di ospitare nelle sue case, in una delle sue case, alcuni sfollati del terremoto, non so come sia andata a finire in realtà. L'altro giorno lo ha chiesto D'Alema a Berlusconi. Risposte non ce ne sono state, o forse sì, non ce ne siamo accorti, non me ne sono accorto. E dove andiamo? Andiamo a Roma. Luciano, buonasera. Buonasera anche a lei. Dica. Sente? La sento molto bene. Allora, senti, due cose veloci. Allora, la prima su Berlusconi di ieri. Ma a me è fatto piacere vederlo e mi do una regolata. Floris, se era... Cioè, che significa mi do una regolata, Luciano? Beh, non era quello su quello che succede, sull'Aquila, quello che ha fatto, quello che ha detto, quello che aveva promesso, e quindi mi do una regolata. Poi dopo invece cioè, vedo Floris. No, insisto perché forse questa sera c'è qualcosa che non funziona bene nel mio cervello, però quando lei dice mi do una regolata, cioè capisco quello che, cioè guardando porta a porta, capisco, sulla Bruce, capisco di più quello che succede. Mi faccio un giudizio sulle cose che accadono, questo vuol dire lei. Che accadono, esatto. Vabbè, quindi, okay. Poi dopo vedo Floris e mi do una regolata anche su quello che dice Floris, quindi faccio un paragone, ma se me li fate tutte e due alla stessa ora non posso vedere né l'uno né l'altro, o vedo mezzo di uno o mezzo dell'altro. D'accordo, ma insomma non è impostarle in questo modo, mi sembra sbagliato, semplicemente perché... semplicemente perché Floris è programmato martedì sera e perché non sta scritto da nessuna parte e in nessuna legge biblica che la consegna delle case, avvenuta peraltro nel pomeriggio, debba essere trasmessa con una edizione speciale di Porta a Porta a partire dalle 21, o no? Esatto, ma io ma non è da fare tutta questo cancan, insomma, io penso che me lo voglio godere appieno le due ore che fa, me le voglio vedere tutte e poi dopo io... Dunque lei è uno di quelli contenti per questo spostamento di Floris a giovedì? Ma no, ma fa contento anche a lui, farebbe contento, no, perché io giovedì me lo voglio godere appieno, me lo voglio godere per vedere quello che dice. Va bene, e così ho una regolata. E poi posso dire anche un'altra cosa. Prego, come no? Allora, sulle barzellette di Berlusconi, non so se se lo ricorda tanto tempo fa sull'aereo i desaparecidos, i buttava, se lo ricorda? Sì, come no, certo. Ecco, e lei diceva 26 secondi, ma non ha detto mica niente, 26 secondi, 26 secondi. Perché non ce ne fa sentire 51? 51 di che? Di secondi? Perché ce ne fa sentire solo 26? Roberta Giordano, sul giornale radio, delle ore 21 ha fatto sentire tutta la barzelletta. Ma guardi che non mi ricordo quanto ho fatto sentire di quella barzelletta, è quello che avevamo in quel momento, i 51 secondi penso che l'abbiamo fatti sentire tutti, e comunque anche se ne abbiamo trasmessi di meno, probabilmente perché il punto centrale di quella barzelletta, che però mi ricordo meno se fosse una barzelletta, era quello che abbiamo trasmesso e non il resto. La ringrazio. Mobili Aiazzone Biella. Stiamo iniziando con gli arredi e quando sarà finito le vede anche tutto il parquet. Sono tutti materiali pregiati. Abbiamo scelto mobile su mobile, questo per esempio è un piano antisdrucciolo e c'è la comodità più assoluta. La qualità dei mobili è qui da vedere, abbiamo curato non soltanto la qualità ma anche il design in modo da fornire dei mobili di eccellente design. Guardi per esempio questo, è una cosa, ecco, è il frigorifero che è l'ultimo modello della più grande azienda che fabbrica frigoriferi. Qua stiamo montando, buongiorno, come va? Ciao, ciao. Ecco, qua stiamo montando la camera da letto, stiamo montando l'armadio, verranno consegnati tutti anche con gli attaccabiti. Quindi è veramente aperta la porta, c'è una casa non popolare, ma una casa di ottimo livello che farebbe bella figura nel centro di una qualsiasi nostra città. Mobili Aiazzone Biella. Beh, la parte secondo me eccezionale di questo documento, trasmesso ieri da Porta a Porta, perché poi Berlusconi parlava, ma c'era Vespa con il microfono, è la parola design, detta da Berlusconi, assume tutta una, e anche il tono in cui ha pronunciato la parola design. Michele Anselmi, buonasera. Buonasera, eccomi qua. Michele Anselmi è critico cinematografico, scrive tra l'altro per Il Riformista e oggi se la prende un po' con Brunetta per le cifre che ha dato, perché Anselmi difende invece il cinema italiano. Non se la prende solo con Brunetta ma anche con una vera e propria campagna stampa, chiamiamola così, che ha iniziato il quotidiano Libero da qualche giorno contro il cinema italiano che incassa soldi dallo Stato ma ne incassa pochi al botteghino. Secondo Anselmi, cifre alla mano, le cose stanno in maniera diversa e vogliamo sapere perché. Prego. Eccomi, no, il fatto è abbastanza semplice. Io capisco che è molto facile e anche giornalisticamente redditizio fare questo tipo di campagne, perché basta mettere a raffronto i soldi presi da un film e gli incassi sala. Quasi sì. Sempre non c'è rapporto e quindi è facile dire ecco, no vergogna, ecco i parassiti, ecco gli autori che succhiano, eccetera, eccetera. Anch'io ho fatto questo tipo di articoli e, sì. E devo dire che in certi momenti sono stati utili, perché sul finire dell'altro secolo e nei primi anni di questo secolo c'è stata effettivamente una logica di finanza allegra con troppi film no finanziati, spesso senza copertura da parte dello Stato. Cosa è cambiato e quando è cambiato qualcosa? Ma è semplicemente cambiato perché nel 2004 un governo di centrodestra, in modo particolare un signore molto liberale come Urbani, fece una riforma che fu certamente rifiutata da molta parte della sinistra, ma che era semplicemente ragionevole. Era una riforma detta del reference system, che è un nome inglese, ma insomma si può riassumere nel fatto che lo Stato interveniva con meno soldi ed esigendo delle procedure più chiare sugli investimenti, sui budget, eccetera, eccetera. Quindi è una riforma fatta dal centrodestra, questo, che ha portato molti vantaggi, che ha portato a fare molti meno film, a fare meno film con meno soldi da parte dello Stato, ma sotto una certa soglia non si può andare. Ora io quando dico, anche un po' provocatoriamente, ma signori di che cosa stiamo parlando? Sto parlando, e lei non mi capirà, di 35 milioni di euro in tutto, cioè lo Stato nel 2009, a fronte di questa campagna violenta, anche a volte un po' scomposta, metterà a disposizione 35 milioni per produrre film di interesse culturale nazionale, opere prime, opere seconde, cortometraggi, documentari, sì, sì, eccetera. però il rapporto con il botteghino non va valutato, lei dice. Dunque, la prima cosa che lei dice è che 35 milioni di euro non è una cifra così grande ed è assolutamente comprensibile per il tipo di produzioni che si fanno, eccetera. E poi lei dice un'altra cosa, però ancora più importante, non è che si può valutare solamente l'incasso al botteghino, perché è un confronto sbagliato quello che si sta facendo in questi giorni sui giornali dopo le parole di Brunetto, o no? Certamente questo, perché è ormai universalmente noto, o dovrebbe esserlo a chi si occupa di queste cose, che l'incasso sala, cioè l'incasso che viene dal botteghino, incide per un 20, 25, 30% rispetto al totale del ricavo. E quindi è chiaro che è più semplice dire: ha avuto 1,5 milioni quel film, ma ha incassato 400.000 euro, vergogna, vergogna, vergogna. Su quelle 400.000 euro bisognerà mettercene molti altri che derivano dalla vendita televisiva, dalla vendita all'estero, dall'home video, dalla pay TV, dal cosiddetto product placement che è stato introdotto sempre da questo governo, eccetera. Poi è chiaro che ci sono film che vanno bene, che vanno benissimo, che riportano portano tutti i soldi indietro e altri no, ma vorrei fare notare, pur non volendo fare una cosa troppo tecnica che può annoiare vostri radioascoltatori, che di questi 35 milioni che il governo di centrodestra, ministro Bondi, metterà a disposizione del cinema, bene, di questi 35, metà, esattamente 17, sono peraltro rientri sui fondi di garanzia, sono cioè soldi che rientrano dai finanziamenti fatti ai film. Appunto. Ecco, secondo le sue cifre, però, addirittura andando a vedere non so quanti film, forse tutti degli ultimi anni, c'è un bilancio inattivo del cinema italiano, o no? Non sono mie le cifre, sono cifre di una rivista molto seria che si chiama Cine Magazine, non smentite dal Ministero, che ha fatto un lavoro certo meritorio, ha messo insieme dati e cifre anche ministeriali per arrivare a questa idea, che dal 2005 oggi, tranne un anno in cui le due cifre si sono avvicinate, se tu metti il totale dei ricavi di questi film, non solo l'incasso sala, a confronto con i soldi che hanno ricevuto, sempre in questi 5 anni i soldi investiti dallo Stato sono stati meno dei ricavi. Certo. Questo non sono cifre mie, sono cifre di Cine Magazine, che è l'house organ molto serio del sindacato giornalisti cinematografici italiani, e a tutt'oggi non sono stati smentiti dal Ministero, cioè da Bondi. Ho capito, poi ci sarebbe da parlare di questa distinzione che Brunetta ha fatto tra il cinema, che sarebbe divertimento, e la cultura, ma il discorso si farebbe evidentemente lungo, e Anselmi, che è un critico cinematografico, non penso che sia d'accordo su questa distinzione. No, anch'io... vorrei essere, se posso dire solo una cosa in un secondo, voglio dire solo questo, che certamente il cinema finanziato dallo Stato deve preoccuparsi di portare i soldi a casa e di raccontare storie anche in una chiave popolare, insomma non ci mancherebbe, non sto dicendo che lo Stato debba finanziare solo film astrusi che non vede nessuno, dico solo che nel conto può succedere che ci siano film come Gomorra, come Il Divo, come Caos Calmo, che riportano anche molti soldi in più, e film magari altrettanto interessanti ma più sfortunati o meno appetibili che riportano molto meno. Basta che non ci sia uno spreco e che non ci sia più quella finanza allegra che, devo dire la verità, fu inaugurata nel 1997 con Veltroni. Ecco, la finanza allegra, per concludere, Anselmi, ha finanziato un sacco di registi. Si fa per esempio sui giornali, in particolare sul Libero, l'esempio di Maselli, cioè a un certo punto il confronto con gli incassi per qualcuno dovrà essere fatto, no? Per cui da questo punto di vista la sparata, chiamiamola così, di Brunetta può essere vista come salutare oppure no? Ma io sono il primo a dire che Le Ombre Rosse di Cito Maselli non doveva essere finanziato dallo Stato per 1 milione di euro. Ma io sono il primo a dirlo, un po' perché un regista, come dire, un po' consumato e che non ha più una creatività così viva, un po' perché bisogna fare delle scelte, però allora questo vale per tanti altri registi, spesso mostri sacri, che sul finale della loro carriera vengono aiutati un po'. Se lei mi chiede era giusto fare questo, io dico no, non era giusto finanziare Citto Baselli per €1 milioni. Anche perché io penso che forse una regola potrebbe essere introdotta: chi prende il finanziamento una volta poi non lo deve più prendere, a prescindere da Citto Baselli. Non è che si può continuare a vivere solo a vivere, insomma, magari è una parola demagogica, insomma, a prendere continuamente soldi aspettando le due sessioni, no, del FUS per quello che riguarda il cinema. Ma giusto, ma lei sa che molti registi e anche molti produttori a un certo punto, vista la difficoltà di avere anche questi contributi, rinunciano a questi contributi. Ora si può dire tutto del grande sogno di Michele Placido, però il suo produttore ha rinunciato a €1.400.000, di cui avrebbe potuto tranquillamente usufruire, essendo stato riconosciuto di interesse culturale nazionale. È vero. Senta, per concludere, è molto grave non sapere cos'è Umberto D? Insomma, no, dipende. No, non è molto grave. Anche perché fu un film talmente se vuole mi può affossare definitivamente, qualche ascoltatore l'ha fatto. Io non sono un fissato, non sono un appassionato, anche se guardo il cinema come tutti naturalmente, però quando prima Squitieri mi ha detto lo sa che Umberto D non ha preso manco un solo, non è andato manco nelle sale, insomma, non mi ricordo quello che ha detto, e io ho detto guardi, io veramente non so cosa sia Umberto D. Ma come, lei non sa che cos'è Umberto D? È una cosa, è grave questo qua. Ho detto, mi scusi, sarà grave. Così mi sono un po' prostrato. Ma io penso che si possa vivere anche senza Umberto D, e come senza molti altri film. Umberto D è uno dei capisaldi del neorealismo, e certamente è un film interessante, anche se molto triste, non malinconico, tra i più sfortunati di Sica. Detto questo, ripeto, si può vivere senza Umberto D, come si può vivere senza Lorenz d'Arabia o senza Vederli o senza sapere che cos'è Umberto D, perché senza vederli siamo d'accordo, ma senza sapere è una grave pecca, secondo lei, culturale? No, è una distrazione, vogliamo metterla così. Va bene, grazie a Michele Anselmi, buona serata. Arrivederci, grazie. Abbiamo riportato alcuni dati un po' diversi da quelli che abbiamo sentito da Brunetta nei giorni scorsi, e d'altra parte diversi ascoltatori infieriscono, come è giusto che sia, sul mio povero corpo. Se non hai visto Umberto D, non puoi capire che il cinema è cultura, e continuerai a fare la tua stupida domanda, fra... E poi ancora, non è molto grave, è terribile il fatto di non sapere cos'è Umberto D, ma insomma è facile infierire sul conduttore, e devo dire anche giusto, perché fa parte delle regole del gioco. Io ammesso candidamente di fronte a Squitieri, non so cos'è Umberto D, me lo spieghi. Ammettere candidamente qualche cosa è meglio di far finta di niente? È la successiva domanda, un po' pro domo mia, ma è una domanda che vi voglio fare. Titoli del TG2. Nel 2010 i disoccupati nei paesi sviluppati raggiungeranno i 57 milioni. L'OCSE lancia l'allarme nonostante i segnali di ripresa economica. Per le auto Marchionne chiede il mantenimento degli incentivi. D'accordo il ministro Scajola. Lodo Alfano, l'Avvocatura Generale dello Stato deposita una memoria alla Corte Costituzionale. Se bocciato ci sarebbero danni in gran parte irreparabili alle funzioni elettive. Sana, 18 anni, marocchina, uccisa dal padre, amava un italiano, minacciati da tempo. Gli amici, bella e moderna, voleva integrarsi. Il ministro Carfagna, saremo parte civile nel processo. Piogge e trombe d'aria, allagamenti, neve in quota in Val d'Aosta, Sicilia la regione più colpita, trasporti in tilt, automobilisti bloccati per ore in autostrada nel Catanese. Lascia la Renault Flavio Briatore insieme al capo degli ingegneri Pat Simmons. Il clamoroso divorzio arriva dopo il falso incidente di Piquet Junior. Un addio o un arrivederci alla Formula 1? Eccoci, 20:37, con voi che ci chiamate e che volete intervenire per dire la vostra. E dunque andiamo a chi c'era prima. Beh, insomma, è un bel dilemma. Mario, provincia di Salerno. Iniziamo dal basso del mio schermo. Mario, buonasera. Buonasera, signor Cruciani. Dica. Ben ritrovato Cruciani, ben ritrovata ironia. Inizio così per dirle che da un po' di... Io devo fare un intervento su Brunetta, ma sì, voglio assolutamente fare questa considerazione. Seguo la radio come la maggior parte dei suoi radioascoltatori quando torno da casa oppure... Allora, io come italiano non mi ci riconosco più. La stragrande in che cosa non riconosco? Adesso le spiego subito. La stragrande maggioranza degli interventi dei miei compatrioti base della nostra cultura e che viene da lontano, la grossa cultura, sembra bella e sepolta. E fondamentalmente l'ironia è il sale della cultura, però sembra quasi che ci sia un tiro a piccione a Presidente Berlusconi e a Cruciani che non ricorda di aver visto un verso di. Credo che la maggior parte degli italiani fortunatamente non siano su questi pensieri, altrimenti non andremo molto lontano. Occorre la sicurezza mentale, occorre soprattutto ben interpretare cosa dice l'altro per rafforzare le proprie idee, i propri pensieri. No, sull'ironia le do ragione, poi naturalmente qui ci si sottopone al volentieri al tiro al piccione o al tiro al Berlusconi che non mi riguarda o al tiro al Cruciani, siamo qui anche per questo. Su Brunetta, Mario? Su Brunetta è qualcosa di straordinario, sono d'accordo con lei. Quell'intervento è da radioteca, sta a significare che ha assimilato in stesso momento dominio delle pause, il tono della voce, come voleva apparare. E poi credo che pochi hanno compreso che quelli presenti queste parole non erano fondamentalmente diretti. La sentiamo molto male, Mario. Dobbiamo richiamarla. Pino da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Sì. Dunque, senta, vorrei una sua opinione su una mia ipotesi che mi sono fatto a fronte di questa guerra che da mesi ci consegue continuamente. Allora, il problema è questo. Io parlando in giro con amici, parenti, per strada, il problema è questo, che chi odia Berlusconi lo odia di più e chi lo ama di più. Praticamente non se ne esce fuori, caro Cruciani, capisci il concetto? Cioè, i politici la smettino, imploro, la smettono, siamo stufi di questa guerra, non ce ne frega nulla. Il problema, vogliamo parlare di programmi, la sinistra la smetta. Ci dica cosa fa al posto di Berlusconi, che magari qualcuno lo voterà. In queste condizioni non ce la caviamo più. Io ho 70 anni e ero povero. Povero sono e povero rimarrò, perché i politici fanno soltanto i politici di mestiere. Vabbè, Pino, per il adesso... potere, per il... no, Luciani, ma la verità. Sì, questo sì. È il pubblico per strada che lo dice, non lo dico io. Sì, vabbè, il pubblico per strada. Pino, non facciamo della facile demagogia. Lei era partito benissimo, secondo me, dicendo che alla gente poi di queste guerre, la RAI, i programmi, non gliene frega niente. Poi è partito, poi ha preso una strada un po' così, un po' demagogica, eh? O no? Parere sulla faccenda che più odiano più amano, è vero o non è vero questo? Come, scusi? Cioè, praticamente facendo questa guerra, chi odia Berlusconi lo odia di più e sì. Chi lo ama di più, inevitabilmente. Sì, può essere, Pino, assolutamente. La ringrazio anche di questo sfogo. Marco da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani. Io rispondo all'ascoltatore che mi ha preceduto. Io sono un elettore di centrodestra. Votai Berlusconi sì. Nel 92 perché mi piaceva come persona. Nel 94. Nel 94, si ha ragione. E l'ho votato anche ultimamente. Però non è come dice l'ascoltatore che ho appena sentito, chi lo odia di più e chi lo ama di meno. Io non lo amo per nulla. Sono, ahimè, vincolato a dare il voto a Berlusconi, perché onestamente, anche un pochino con un certo imbarazzo, non so a chi darlo, cioè ha 2000 difetti, anche di più. Ultimamente è peggiorato da morire perché è un arrogante, un presuntuoso, tutto quello che volete. Ma oggi in politica io faccio semplicemente i miei interessi, come li fanno gli altri in politica. Giusto, giusto. Io sono un imprenditore. Se mi si alza domani mattina il signor Rossi, che ne so, dell'UDC, e comincia a comportarsi come il Berlusconi del 94, una persona capace, un imprenditore capace. Faccio un esempio, Montezemolo. Domani mattina Montezemolo scende in politica. Io so che è un uomo capace, ha portato la Ferrari a risultati straordinari. La Fiat non ha mai raggiunto questi livelli senza fare troppi casini con le precedenti gestioni della famiglia Agnelli. Io do il voto a Montezemolo, poi se si butta a sinistra, buon per lui, se si butta a destra, buon per lui, al sottoscritto imprenditore, becero imprenditore, non gliene frega nulla. Cioè io alla fine devo portare avanti la mia azienda, devo perché c'è, alla fine è un rapporto. E dunque perché vota Berlusconi lei? Io l'ho votato semplicemente perché tra tutti è quello che mi dà, io ripeto, per me che sono un imprenditore, sì, certo, sono sì. Un operaio, se fossi un operaio probabilmente darei il voto a D'Alema. Non lo so, non ne sarei così sicuro comunque. Sì, insomma, a uno di loro, ora perché non sono un operaio, non so neanche me lo pongo sto problema, ma essendo un imprenditore, ripeto, un becero imprenditore, la proprio la peggior razza dell'imprenditore. Beh, non si butti no, giù. No, non mi butto giù, lasciamo perdere. No, non mi butto giù. Se no stasera siamo in due, io con la storia del film e lei con... Ecco, io dico semplicemente, alla fine io faccio i miei interessi, gli interessi della mia famiglia, gli interessi del mio orticello, perché è questo. Poi dopo possiamo parlare di cultura. Senta, però mi ha colpito una cosa di quello che mi ha detto Marco. Lei ha detto, altrimenti per chi dovrei votare? Perché insomma lei non vede un'alternativa in fondo, no? No, forse c'è Maroni, ma Maroni è molto... Maroni però sta con Berlusconi alla fine, per cui è la stessa cosa. Sì, ma è completamente diverso. No, sì, però sono alleati, eccetera. Però, insomma, dall'altra parte non vede un'alternativa che possa garantire i suoi interessi, perché votare per i propri interessi è molto sano. C'è Montezemolo. Se Montezemolo si sbriga e si dà una mossa e scende in politica al centro-sinistra, il centro-sinistra dopo domani, sale al 52-53%. Questo che lo metto... Lei dice, sicuro, risentiamoci, lei mi dirà... Aveva no, no, ma non può darsi, adesso, detto così, col centro-sinistra non so se sia una definizione corretta, Montezemolo col centro-sinistra. Può darsi che la sinistra abbia bisogno di una persona molto credibile anche dal punto di vista imprenditoriale o comunque quella che era la sinistra per ritornare al governo. Marco, la ringrazio, vuole aggiungere qualcosa? Sì. Arrivederci. Grazie, buona serata. Allora, intanto sappiamo che abbiamo saputo da poco che Ballarò ricomincia con Tremonti, Alfano, Bersani e Casini, dunque un buon parterre per domani. C'è il traffico, però prima voglio sentire Andrea da Macerata. Buonasera dottor Cruciani. Dica. Io intanto l'accompagno sul fatto che non conosco Umberto D. Meno male. E siamo in due, siamo in due. Già qualcosa. Ma a parte questo, volevo chiederle un suo parere in merito all'intervento di Brunetta, che diciamo sostanzialmente condivido, ma secondo lei il discorso varrebbe anche per i giornali, visto che ricevono contributi pubblici sostanzialmente? Se diciamo il cinema deve essere privato di qualche forma di sostentamento, non capisco perché i giornali debbano comunque attingere a questi fondi. Lei che ne pensa? Ma guardi, io penso che la maggior parte delle attività non debbano avere bisogno del contributo dello Stato, per cui figuriamoci se sono d'accordo con... lo Stato deve essere il più leggero possibile. So che è un'eresia dire una cosa di questo tipo in Italia, e dunque tendenzialmente sono contrario a qualsiasi finanziamento statale per il cinema, per i giornali e per quant'altro. Poi naturalmente, siccome non è così, bisogna decidere che cosa lo Stato finanzia. I giornali, come sa, ci sono i giornali di partito e quelli assolutamente... Io sono contrario al finanziamento pubblico dei partiti, per cui figuriamoci i giornali dei partiti. E il resto dei contributi pubblici che riguardano la stampa, la posta, gli abbonamenti, la carta, su quello si può discutere. Mobili Aiazzone Sciella. Gli appartamenti hanno tutto ciò di cui ha bisogno un appartamento per essere immediatamente vivibile, cioè le lenzuola, le coperte, gli asciugatoi e poi tutta la batteria di cucina, pentole, piatti, bicchieri. Come abbiamo visto a Unna. Esatto, verranno consegnate nella stessa situazione, per cui le famiglie, una volta avuta la chiave, potranno immediatamente venire a viverci da subito. Mobili Aiazzone Sciella. Giuseppe, provincia di Varese, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Dica. Ma senta, io voglio prenderla da un punto di vista diverso. Ieri sera non ho guardato la televisione come la maggior parte delle sere. Anch'io. E ecco, mi associo a lei, Umberto D, non so chi è, ma io... E siamo in tre, dunque. Ecco, sì, però conosco Solgenizzi e Una giornata di Ivan Denisovic. Conosco Pirandello, Edoardo De Filippo, Sciascia, e possiamo andare avanti così. Io mi meraviglio che uno guardi la televisione e possa vedere una partita, forse due, Garbo, ieri sera un attore che si chiama Garbo, Garco. Okay. Berlusconi che fa lo spot dei mobili, io mi immagino la Merkel, Obama o un altro che fa gli spot dei mobili, cioè, è veramente una cosa raccapricciante, ma questa Italia è proprio scaduta al massimo, la cultura non c'è, non voglio parlare di politica perché ormai l'hanno fatto in tanti, e peggio qualcuno che dice non conosci Umberto D, i nostri figli non conoscono Solgenizzi, non conosciamo Edoardo De Filippo, non sappiamo cos'è la letteratura femminista, non conosciamo l'esclusa di Pirandello, non conosciamo Ibsen, niente, non conosciamo niente. Preferisco fare la figura di scemo Tolstoi che conoscere Umberto D, guardare Bruno Vespa, guardare un... chi conosce Umberto D per forza guarda Bruno Vespa, insomma adesso siamo entrati in un cortocircuito. Tutto particolare. La ringrazio, dobbiamo essere più veloci perché ci avviciniamo alla chiusura. E allora Fabio da Imperia, un flash. Fabio, dica. Ciao, buonasera. Volevo solo intervenire riguardo al discorso appunto dei film delle regista Quinteri. Sì. Io non conosco Umberto D, non sono un grande appassionato, credo che comunque la cultura debba andare sulle proprie gambe, quindi se non fa botteghino vuol dire che la cultura non piace e è giusto che svanisca in un certo qual modo. E anche lì, citando quel famoso critico cinematografico, direi che tutti i film tipo Umberto D e vi dicendo sono delle grandi cagate pazzesche. Niente, dire. Va bene, Fabio. Sandro da Milano, buonasera. Sì, buonasera, vorrei capire una cosa: che senso ha finanziare un film di alta cultura quando poi nessuno lo va a vedere? Se il film è di bassa cultura, è giusto non spendere soldi pubblici, e se è di alta cultura. Ho fatto un po' di scena, ma alla fine nessuno approfitta della mia cultura. Cioè, okay. Lei dice che senso ha produrre qualcosa se poi nessuno va a vederlo. Appunto, lei il regista che ha intervistato prima dice tanto. Guardi, me lo domando anch'io: se poi nessuno, è vero che qualche opera viene riconosciuta successivamente, okay. Il valore viene riconosciuto successivamente, ma insomma è una grande opera perché come tale viene riconosciuta un po' da tutti, ecco, insomma, dall'opinione pubblica e non da magari un gruppo di critici. 800 24 00 24, ci avviciniamo lentamente alla fine di questa trasmissione, andiamo a Genova con Alberto, siamo quattro che non conosciamo. Com'era Umberto D? Io lo conoscevo. Alberto, eccoci qui. 4-1. 4-1. Non fa testo, naturalmente, però. Volevo dire che dopo lo spettacolo. Potrei essere cattivo e fare un piccolo interrogatorio su Umberto D, andando su internet, però non lo faccio. Lei no, è sincero, lo conosceva. Devo dire che dopo lo spettacolo penoso di ieri sera. Penoso, peraltro, addirittura. Sì, per me è penoso, però ce n'è un altro che è ancora più penoso e che ovviamente non è mai stato trasmesso in televisione, men che meno da Mediaset, ma neanche dalla Rai. È la versione integrale dell'intervento della figuraccia che Berlusconi fece nel 2002 al Parlamento europeo. Suggerisco agli ascoltatori della Zanzara di andare su YouTube e guardarselo. È molto, secondo me, quale? Quello sul educativo. Capò? Quello sul capò. Esattamente, perché... Ma quello l'abbiamo visto in tutte le salse, Alberto. Non credo, visto e ascoltato in tutte le salse. Completamente non mi ha fatto vedere. Suggerisco veramente di andare su YouTube e poi ognuno può trattare le conclusioni che meglio crede. Va bene, Alberto, credo che in molti già l'abbiano fatto. Walter da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani. Allora, intanto aggiorniamo il punteggio 4-2. 4-2, benissimo. 4-2. Poi a proposito di Parlamento europeo e dell'intervento in napoletano, volevo ricordare che qualche anno fa Capanna, allora rappresentante di Democrazia Proletaria, fece al Parlamento europeo un intervento in latino. Sembrerebbe, stasera avete parlato di cultura, ma siamo andati su un lago ghiacciato. Ma la provocazione era assolutamente la stessa. Cioè, allora Capanna si lamentava che qualcuno aveva detto che le sinistre erano ignoranti, barbone, strappate, ma l'intervento in Latino significava che la forma può essere un modo per ricordare alcune cose che magari non sono vere. L'intervento in napoletano, secondo me, ci sta benissimo in una volta, voglio dire, come una provocazione, in un ambiente spocchioso e ignorante come è quello del Parlamento europeo. Vabbè, adesso ambiente spocchioso, ignorante, sarà un ambiente un po' grigio, un ambiente un po' fatto di tecnicismi, di regole un po' astruse, spesso di cose, di dibattiti inutili, però perché ci dovrebbe stare bene questo intervento in napoletano? Per mettere un po' di pepe, per fare un po' di casino, ma non è il compito di un parlamentare questo, no? Era che si è fatta un allargamento della nazione europea, si è fatto questo allargamento e volenti o nolenti tutti hanno contribuito. E ha contribuito anche il sud, che è... Vabbè, ma chi veramente... se ne frega, Walter, mi scusi, ma che significa ha contribuito il sud all'allargamento dell'Unione Europea? È una cosa che non ha senso dire. Cosa significa che ha contribuito il sud, mi scusi? Il fatto che il latino è una lingua colta e il napoletano è o non è un dialetto. Non ho capito, mi spieghi bene perché condivide il fatto che ci sia stato un intervento in napoletano all'interno del Parlamento Europeo? Condivide che sia stato fatto questo intervento, e ripeto, occasionale e con un intervento che io leggo come provocatorio, sì? Perché riguardava un argomento che era il sud. Vabbè, si può parlare del sud anche... in napoletano. Io faccio un intervento per dire Capanna, per dire che non sono un incolto, e lo faccio in latino, così io dico che c'è una parte dell'Europa che collabora al fatto che siano entrati 150 milioni di persone. Ho capito Walter, ma nonostante questa sua spiegazione, questo tuo tentativo di spiegare e anche di approvare l'intervento di Revellini, come si chiama, io penso che sia una boiata pazzesca, appunto. Riprendendo, intanto lei continua a parlare, ma noi ce ne andiamo e ci sentiamo domani 18:30. Ciao. La Zanzara.